tutte quelle volte tra le scure bisce dell'Eden a mangiare mele tolte a stupida gente, quando il mare ha perso qua sotterra il tuo paradiso e tutto il dico volto intriso, strisce di panico che avvolgono e spesso devi essere risposto a perdere tutto il tuono del tempo perso, giunge in veste il nuovo lutto e io solo il tono, un nuovo canto straziato, nuovo canto straziato. Vado troppo la salvezza, trovando stupida rotta, tra gente avversa, alla mia corsa, con l'odio tra i denti porta, forte presenza di dolore, a ogni lacrima persa. Ho amato troppo la salvezza, trovando stupida rotta, tra la gente avversa, alla mia corsa, con l'odio tra i denti porta, forte presenza di dolore, a ogni lacrima persa. Ho amato troppo la salvezza, trovando stupida rotta, tra la gente avversa, alla mia corsa, che con l'odio tra i denti porta, forte presenza di dolore, a ogni lacrima persa. Poco di quello che hai, del sogno rimane deciso, spezzati i giorni assalgono e non rimane nessun verso degno. Mentre tutto chiaro tra le parole del mare riappare, sembra urlare. Niente per certe persone abbastanza, stronzi che misurano i tuoi passi con i livelli dell'ignoranza, decidendo i tuoi prossimi, con una ambivalenza ambigua, portando incertezza all'anima. Mentre tutto chiaro tra le parole del mare, tutti quei momenti si colorano in oro la veste di pezzi che agli occhi di altri sembrano pazze stanze e tornare pulito poi odora l'impossibile come costruire di salvezza, mentre tutto chiaro tra le onde del mare appare. Spesso devi essere disposto a perdere tutto, e il volo del tempo perso giunge in veste di nuovo lutto, e io solo il tono, il nuovo canto straziato, il nuovo canto straziato che sembra dire, ho amato troppo la salvezza, trovando stupida rotta tra la gente avversa, una corsa che con l'odio tra i denti porta, forte presenza di dolore, a ogni lacrima terza, a ogni lacrima terza.